L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddiè, benvenuti all'Altra Europa. Come ogni settimana siamo qui per raccontarvi l'Europa delle storie, l'Europa delle persone. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, euronetplus.eu e radio24.it, i nostri siti di riferimento dove potete riascoltare la puntata, scaricare il podcast e trovare anche tutti i contributi extra. Oppure le coordinate per trovarci virtualmente sui social network, chiocciola Euronet Plus R24 o ancora il mio account personale chiocciola Federico Taddia. Ogni settimana un viaggio, oggi però partiamo proprio dal cuore, partiamo dall'Europa stessa, perché giovedì è stato pubblicato il nuovo rapporto Italia dell'Eurobarometro, che è il sondaggio dell'opinione pubblica europea condotta ogni sei mesi dalla Commissione europea. Sono dati, sono tendenze, un po' la fotografia di quanto del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Con noi per commentare alcuni numeri c'è Emilio Dal Monte, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Ciao Emilio, buon sabato. Ciao. Ciao Emilio. Allora, una fotografia, un'istantanea, che è però sempre importante perché si misura un po' il polso dell'opinione pubblica. Cosa ci dice a questo giro? A questo giro i risultati sono dal mio punto di vista abbastanza preoccupanti, anche se quando si dice questo giro in realtà hai fatto bene a sottolineare che quella di Eurobarometro è una fotografia. Io aggiungerei che è una fotografia nel tempo, sì. Nel senso che non dimentichiamoci che Eurobarometro si fa due volte all'anno e questi dati in realtà erano stati pubblicati per tutta Europa a dicembre, attorno a Natale. Poi sono stati estratti i campioni nazionali, quindi in realtà bisogna anche considerare che questi dati che sono usciti sono stati in realtà raccolti la settimana prima dei fatti di Parigi, del Bataclan, tanto per capirci. Sì. Questo cosa vuol dire? Che quando andiamo a vedere quali sono, diciamo, le preoccupazioni maggiori sul piano europeo per il campione italiano, ecco che compare un pochino dappertutto, in realtà compare al primo posto l'immigrazione seguita dal terrorismo. Pensate, il terrorismo, già così considerato come una questione fondamentale, un vero e proprio problema, una preoccupazione da quasi il 30% degli europei, ancor prima che succedesse quello che è successo a Parigi. Quindi c'è da immaginarsi che i dati oggi sarebbero ancora più preoccupanti. Assolutamente. Quello che invece è grave, ma allo stesso tempo molto indicativo, è che l'immigrazione viene vista a livello europeo come una questione, una preoccupazione per quasi il 60% delle persone. Da notare che il dato si è triplicato nel giro di un anno e mezzo. In altre parole, quella che era una preoccupazione, diciamo, mediterranea, italiana, fino a un anno e mezzo fa più o meno, con quello che era successo a Lampedusa, eccetera, eccetera, diciamo che questa percezione si è a questo punto diffusa in tutta Europa, e quindi l'immigrazione, da quando si è aperta la rotta dei Balcani, aperta, chiusa, riaperta, richiusa, insomma, a questo punto veramente tutta Europa si rende conto che il problema c'è e che deve essere affrontato. Ma c'è anche una valutazione delle risposte che l'Europa dovrebbe dare? Vengono dati anche suggerimenti o viene sondata anche? Questa è una bella domanda. La risposta è sì e no. Nel senso che se uno deve basarsi su quello che dicono le risposte, sì. Vediamo dei dati molto preoccupanti quando viene chiesto a tutti i campioni, quindi, che sono stati sondati, se il proprio paese dovrebbe aiutare i rifugiati. Quello che è straordinario è che nel caso italiano praticamente solo il 40-42% delle persone che sono state intervistate ritengono che i rifugiati debbano essere aiutati, e questo quindi rispondo in un certo senso certo. Per assurdo alla tua domanda, questo ci pone in una categoria, diciamo, di cittadini europei assieme agli ungheresi, ai cechi, agli slovacchi, che sembrano propendere per un non aiuto nei confronti dei rifugiati, e questo è veramente un dato che mi ha molto sorpreso e anche parecchio intristito. ec.europa.eu/Italy, come sempre, il sito di riferimento per conoscere nel dettaglio anche tutti gli altri numeri. Questo è, insomma, è stato un assaggio di Eurobarometro. Grazie davvero a Emilio Dal Monte, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Buon lavoro, Emilio. Grazie, altrettanto. Adesso un Europost-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Concorso un nuovo logo per Matera 2019. Grafici e creativi del continente, la capitale europea della cultura, vi chiama. È aperto il bando per il nuovo logo di Matera 2019, che avrà il compito di contenere i valori della candidatura della città lucana. Il tema su cui si fonda infatti l'intero progetto è Open Future, caratterizzato da parole chiave come coproduzione culturale dal basso, cittadinanza culturale, apertura, progresso, co-creazione e trasparenza. C'è tempo fino alle ore 13 del 15 marzo per presentare i propri progetti. Il bando è scaricabile dal sito della Fondazione all'indirizzo matera-basilicata2019.it. L'altra Europa. Ebro fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine di dolore. Pieno fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine di dolore. Con le parole, con le sonorità di Vinicio Capossela andiamo in Grecia. Grecia che accompagna ormai da anni il nostro racconto, la crisi, gli immigrati, le storie, anche le storie positive, la creatività che abbiamo visto e narrato. La Grecia questa settimana è stata però particolarmente al centro dell'attenzione di Radio 24 con l'Europa al bivio greco, Radio 24 nel cuore della crisi, le voci, le testimonianze dei nostri colleghi, e abbiamo il piacere di avere qua in studio Valentina Furlanetto, che è stata appunto una delle nostre giornaliste. Ciao Federico, ciao a tutti. Come stai? Ma sto bene, un po' stanca, insomma è stato stancante sia dal punto di vista fisico che emotivo, ma insomma se mi lamento io non so cosa potrebbero fare le persone che sono lì ai domeni, no? E tanti racconti, tante immagini anche in questi giorni, no? Come sempre la cronaca chiama i giornalisti, che diventa anche quasi difficile forse arrivare lì con tanti colleghi per raccontare quello che ancora non è stato raccontato. Sì, in effetti la copertura era grande, quindi trovare una storia in più, un'immagine in più era difficile. Abbiamo cercato di farlo sul sito di Radio 24, poi potete trovare, scaricare gli audio, vedere le foto, anche sul mio profilo Twitter, perché comunque ci sono sempre degli spaccati che non conosci, no? La storia di Idomeni, di questo confine greco-macedone, è una storia che va avanti da circa un anno, però sta diventando sempre di più una catastrofe umanitaria, gestita, devo dire, in maniera interessante e potente dalle ONG, dall'ONU. Questa volta davvero l'onore dell'Europa è tenuto alto dalle ONG e dall'ONU, perché in realtà la Grecia non ha la forza né economica né logistica per poter fare più di tanto, e l'Europa in questo momento latita. E il sito di Radio 24, radio24.it, per riascoltare i reportage, vedere anche le immagini. Domani mattina, sì, alle 8:15, se non erro, quarto, c'è un tuo reportage. E così, per chiudere un po' questa settimana, ho chiesto a Valentina di raccontarci, di farvi vedere tre immagini, tre scatti che lei ha pubblicato sul suo profilo. Mi hanno colpito e mi sembravano un filo conduttore onesto, che non aveva bisogno di tante altre sovrastrutture per raccontare quello che hai visto. Fotografie che stiamo già pubblicando anche sul mio profilo Twitter e Facebook, e che vi raccontiamo. La prima è una fila per il pane. Sì, ogni mattina si ricreava questa fila lunghissima, davvero lunghissima. Faceva soffrire vedere queste persone, no? Perché ti ricorda delle immagini del passato che ritorna. questa fila di persone che aspettano un pezzo di pane, perché è letteralmente così, perché le ONG, l'ONU non sono più in grado di sostenere. L'altro giorno c'erano 14.000 persone a Idomeni, però crescono ogni giorno perché arrivano dal Pireo, dalle isole, e come un imbuto a Idomeni si ritrovano tutte lì. Quindi questa fila lunghissima per il pane mi ha colpito tantissimo, perché passavano ore in fila, ore e ore sotto la pioggia, bambini, donne. Ti dicevo prima fuori onda che mi ha sconvolto prima un collega che mi chiedeva: ma non avevi paura? Di cosa? Cioè, è veramente un esercito di miserabili, di persone che anche fisicamente sono stremate. Quindi mi fa paura le persone che possono ragionare così. Certo. E poi sprassi di gioia, di spensieratezza anche in sì, attesa. No? Sì, soprattutto dai bambini. Dai bambini, ed è la seconda fotografia bellissima che hai colto questo attimo, dove c'è una bambina che gioca a campana, il classico gioco che si fa con un sasso sì. E un tracciato perché per terra. Perché il secondo giorno aveva piovuto e c'era fango dappertutto. E in mezzo a questo fango, chiaramente la terra si era ammorbidita, questa bambina aveva trovato un sasso e ha disegnato il classico gioco della campana. E saltava con questo sasso, in mezzo spalavano fango, tiravano fuori dalle tende, madri, padri disperati, e lei tranquilla in mezzo a tutto questo giocava. Ma spesso ho visto i bambini fantastici, chiaramente è una situazione indegna per dei bambini, no? Perché ci sono crisi respiratorie, sono bambini che hanno avuto le dita dei piedi in cancrena, bisogna dire anche questo, però i bambini riescono a giocare ovunque. Quindi c'erano qualche palla raccattata con gli stracci, ci giocavano. Ho visto dei bambini giocare con una specie di... avevano trovato probabilmente da qualche parte una specie di cannone e facevano finta di fare la guerra, giocavano fra di loro. C'era questa bambina che giocava a campana. Sulla ferrovia, perché avevano fatto questo sit-in sulla ferrovia, un bambino aveva un piccolissimo trenino di plastica e lo faceva correre, faceva finta di... E i bambini sono fantastici, devo dire, sguardi bellissimi. Quello che mi ha impressionato di più, di solito diciamo sempre, mi fanno commuovere le facce dei bambini. A me facevano commuovere di più le facce dei padri, perché vedevi in loro la vergogna di aver trascinato la famiglia. Dicevano, uno di loro mi ha detto... io ho detto a mio figlio che lo portavo in Europa, dove c'è la democrazia, e poi l'ho portato qui e non so come spiegarglielo. La terza foto invece è un'altra immagine di quella quotidianità che si va a cercare anche nel fango, nella disperazione, nella fame, ed è una ragazza che nella sua tenda dà da mangiare al suo gatto. Che... Sì, è stata sconvolgente perché ci siamo voltati, io e un collega, abbiamo visto questo gatto, un gatto curato, bianco e rosso, col collarino, sbucare da una tenda, che era un po' come vedere un cammello in autostrada, no? Perché è un campo profughi, in mezzo al fango, appunto perché aveva piovuto, in mezzo ai liquami, c'era questa tenda e dentro era linda, pulita. Allora mi sono avvicinata e c'era questa ragazza, Era, che è di Yarmouk, ma si era trasferita con la mamma a Damasco negli ultimi anni, il fratello sta in Svezia, loro vogliono andare in Svezia dal fratello, raggiungerlo. E mi diceva: il gatto, quando facevo le valigie, mi aspettava, mi agolava sulla porta, non me la sono sentita di non portarlo. Questo gatto l'ha portato in un marsupio e l'ha portato in barca, in treno, in autobus. E al di là del fatto del gatto, che è singolare, non capivo perché mi aveva così tanto colpito questa storia, perché in effetti a me piacciono i gatti, ma non è che sono un animalista di quelle sfrenate. E credo che sia perché era da proprio una lezione su come rimanere umani. Lei aveva messo addirittura dentro la tenda una piccola cassettina con dentro una sabbiera, in realtà era terra, per tenere pulito il gatto. E quando il gatto non lo abbandoni, no? Non te lo mangi addirittura come in tempo di guerra, ma te lo porti dietro restando umani in questa maniera. Mi è sembrata una storia bella. Tre immagini, tre storie. Storie e immagini sono anche cuore del lavoro di un regista che ben conosciamo perché abbiamo incontrato più volte qui all'Altra Europa. Diamo il benvenuto ad Andrea Segre. Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno a tutti. Buon sabato a te. andreasegre.blogspot.it. Questo è il sito di Andrea, dove da qualche giorno compare una lettera aperta all'Europa che si è commossa, l'Europa che si è accorta di quello che sta succedendo, pare, una lettera dove tu fai una sorta di appello importante. Ma sì, di non continuare la miopia con cui abbiamo raccontato tutto ciò fino a qui. Io sono stato ai Domeni, sono stato a Lampedusa, sono stato sul fiume Evro, ci sono stati in mille luoghi di confine, ma capisco l'importanza, l'emozione di raccontarli, però quei luoghi non raccontano nulla. Quei luoghi sono punti di imbuto, come diceva la collega prima, dentro i quali si concentra una pressione, ma se noi ci fermiamo a quei luoghi continuiamo a non fare niente. L'altra sera c'era il dottore protagonista di Foca Mare, sì. Bartolo, giusto, Piero Bartolo, sì. A Che Tempo Che Fa, e c'era Fazio che lo guardava e diceva: ma lei mi sta veramente dicendo che a Lampedusa ci sono solo due dottori, dobbiamo fare una campagna, ed è partita sul web la campagna per aumentare i dottori a Lampedusa, come se noi mettendo più dottori a Lampedusa cosa risolviamo? Mm-hmm. Miglioriamo le condizioni di chi arriva? Sì, certo, ma quanti muoiono prima di arrivare? E quanti non hanno altro modo per arrivare in quel modo? I Domeni non è una storia iniziata un anno fa, è una storia iniziata 20 anni fa. Io sono stato ai Domeni, ho parlato con le persone che vivono ai Domeni e ricordano afghani, pakistani, albanesi prima, iracheni, curdi, che sono passati da lì, dai primi anni 90. È una rotta che adesso si è ingrossata perché altre si sono chiuse e perché c'è un terribile conflitto che non abbiamo saputo in alcun modo prevenire. Però è una storia che va avanti da 20 anni, come la storia di 20 anni va avanti da 20 anni. E noi ciclicamente ogni tanto scopriamo i luoghi dove aumenta la criticità, dove c'è qualcosa che ci emoziona, che ci commuove. Ma quindi, Andrea, la richiesta, tra virgolette, che fai al mondo dell'informazione, anche al mondo degli artisti, degli intellettuali, è raccontare più storie. Di andare a raccontare i luoghi di partenza e i luoghi di arrivo. Perché una persona non ha altra strada se non il barcone? Perché non ha altra strada se non i Domeni? Lo possiamo capire nei luoghi di partenza. Andando ai Domeni, sì, ci sono tanti siriani che scappano dalla guerra, è vero, non c'è dubbio, ma ci sono anche tantissimi uzbeki, afghani, pakistani, iracheni, iraniani, curdi, che arrivano, palestinesi, somali, che arrivano da altre strade e che, non avendo altro modo di poter viaggiare, si infilano dentro alla rotta balcanica perché oggi è quella che funziona, tra virgolette, perché sappiamo benissimo quanto male funziona. E allora perché noi non raccontiamo perché la gente non può partire? Perché non andiamo a vedere che cosa significano, che cosa sono i luoghi della diplomazia europea, consolare, le ambasciate in partenza? Non ci sono, non sono niente. È impossibile chiedere sia il resettlement umanitario, sia il viaggio legale per andare a lavorare. Non ci sono luoghi dove io posso accedere ad un viaggio legale, ad un viaggio sicuro. Andrea, questo dobbiamo raccontare, perché è lì che parte la morte di Domeni, la morte di Lampedusa. Così come dobbiamo raccontare i luoghi di arrivo dove ci sono persone che danno informazioni a chi parte, che hanno delle possibilità magari di ospitare persone che però non riescono a far venire. Ci sono centinaia di famiglie che potrebbero ospitare centinaia di parenti, evitandogli l'umiliazione di Domeni, il fango, la fame, la malattia, la malattia o i barconi. Questa richiesta di Andrea, vi consiglio davvero di andare a leggere comunque la sua lettera, ben più articolata, andreasegre.blogspot.it. Grazie Andrea per la tua riflessione e buon lavoro. So che comunque la tua telecamera è sempre accesa lungo tante vie, tante strade, quindi in bocca al lupo davvero. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Buon sabato a te, ringrazio anche Valentina Furlanetto. Valentina, grazie anche a te, sì, a tutti i colleghi di Radio 24 per il Federico, lavoro. Certo. Volevo aggiungere, è vero che i Domeni è una storia che va avanti da anni, ma non è mai arrivata a queste cifre. Assolutamente. Quindi lo scopo del giornalista, della stampa, è anche dare le notizie, quindi un affollarsi così di gente senza servizi è una notizia. Poi lui fa il regista e giustamente racconta è giusto che illumini anche con la sua diversi telecamera, per raccontare, esatto, le storie. Domani mattina 8:15 il reportage su Radio 24 di Valentina Furlanetto. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14:30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. L'altra Europa. You seem like a soldier whose last is composure. You wounded and play a waiting game. And no man. Ancora buon sabato da Federico Taddia, Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia per trovarci anche su Facebook e Twitter. Continuiamo a viaggiare con l'altra Europa e questa volta viaggiamo per davvero parlando di Erasmus, ma da un punto di vista molto molto particolare. Ieri infatti si è tenuto all'interno di Viaggi di Carta, che è una rassegna promossa dal Comitato Scientifico della Biblioteca Malatestiana di Cesena, un appuntamento, un convegno, una conferenza tenuta dal professore Giampaolo Brizzi dal titolo Prima dell'Erasmus, la mobilità studentesca nell'Europa medievale e moderna. Brizzi è docente di storia moderna all'Università di Bologna e responsabile dell'archivio storico dell'Ateneo Bolognese. Buon sabato, professore. Buon sabato a voi. Allora, l'Erasmus non ha portato nulla di nuovo? Gli studenti da sempre si muovono? Ma dunque, possiamo impostare il discorso così. Io credo che l'Erasmus, come il processo di Bologna, cioè il tentativo di uniformare i processi didattici, percorsi didattici a livello europeo, siano soltanto scaturiti o siano principalmente scaturiti dall'esperienza del passato. La mobilità studentesca e anche quella dei docenti è tipica del mondo universitario fin dalle sue origini ed è rimasta forte fino a metà 600, poi si è lentamente esaurita e ha avuto uno stop quasi totale con l'età napoleonica. Diciamo che non è mancata nell'8-900, nel primo 900 una mobilità, ma dovuta più a fattori congiunturali, a circostanze politiche. Penso ai greci che durante il periodo delle guerre di indipendenza dovettero fuggire, alla rivoluzione d'ottobre, quindi alla migrazione russa. Penso poi invece nel dopoguerra, alla guerra del Vietnam, quanti ragazzi americani arrivarono in Europa per evitare di essere mandati in guerra, al regime dei colonnelli, ai palestinesi, agli israeliani che non avevano un numero sufficiente di università che li potesse ospitare. Ecco, però non dettati dalla ricerca di scuole di eccellenza, non dettati a quelle che erano le motivazioni originarie. Ecco, sulle motivazioni originarie io credo che sia importante riflettere, perché l'Erasmus proprio punta su questo. E la cultura europea ha una forte base unitaria dovuta proprio all'esperienza e alla disseminazione dei saperi che si compì dal XII secolo in poi nel mondo universitario. Ecco, è questo credo il maggior patrimonio verso il quale si sono orientate le scelte dei politici della comunità europea, che hanno pensato di far rivivere in modo sicuramente insufficiente la mobilità degli studenti universitari, in modo insufficiente, ripeto, perché fino a metà 600, faccio un esempio fra i tanti, sì, questo è molto circostanziato e preciso, voglio ricordare che il 33% degli studenti universitari delle università storiche italiane, Pavia, Padova, Bologna, Pisa, Siena, erano stranieri. Oggi il grande successo della mobilità fa arrivare a Bologna qualcosa dico Bologna perché è la città che ospita il maggior numero di studenti Erasmus, ne ha ospitati lo scorso anno 1800 su una popolazione di 82.000, quindi rapporti molto bassi, ma sul piano, io credo, degli aspetti, come dire, positivi di questo processo, credo che lo si possa leggere proprio con la facilità con cui i nostri studenti, per ragioni principalmente economiche, va detto, però riescono poi a inserirsi in una attività professionale in paesi, altri paesi europei o fuori dall'Europa. Insomma, la mobilità positiva, no? Quella che comunque è della circolazione di idee, di sapere, di contaminazione, che forse rispetto al passato, e questa è un po' la novità moderna, non c'è solo un incontro tra università, ma c'è poi anche una presenza viva nel territorio, nella città. Certo, certamente. Diciamo quello che differenzia l'attualità dal passato è la condizione dello studente in mobilità. Lo studente in mobilità nelle università storiche viveva una condizione del tutto particolare che non è assimilabile all'attuale, nel senso che viveva in una sorta di enclave con privilegi e tutele che oggi non sono date, anche perché sarebbe inutile poter provare a ricostruire quelle condizioni. Però credo che il riconnettere un tessuto culturale europeo attraverso l'Erasmus oggi è proprio l'obiettivo che dopo la Seconda Guerra Mondiale le università europee, o almeno le più avvertite, hanno cercato di perseguire, proprio per superare quella autarchia spirituale e culturale che avevano maturato nell'età della borghesia e nell'età soprattutto dei nazionalismi. Certo. Io ricordo appunto l'espressione di Karl Jaspers, che appunto chiedeva che alle università fosse riconosciuta una piena autonomia, proprio per farle diventare il volano di una ricostruzione di quei nessi culturali comuni che fin dal Medioevo erano cresciuti grazie al lavoro degli intellettuali dentro l'università. Per gli intellettuali naturalmente intendo anche per tutti quelli che si avvicinano al mondo degli studi. Mm-hmm. Insomma, e questo è sicuramente il valore contemporaneo che tante volte abbiamo raccontato dell'Erasmus qui all'Altra Europa. Grazie davvero, professore. Buon lavoro. Prego, arrivederci. Erasmus come esperienza che segna la tua vita da studente, la tua vita professionale, ma anche la tua vita personale. Poi ci sono esempi di Erasmus che davvero sono particolari, a volte sono unici, a volte sei proprio tu, studente, anzi in questo caso studentessa, ad aprire delle nuove vie. Abbiamo il piacere di collegarci con Teheran, con Valentina Simeone, studentessa di lingue dell'Università degli Studi di Cagliari, che è di fatto la prima Erasmus a vivere l'esperienza, a vivere i sei mesi del programma in Iran. Ciao Valentina, buon sabato. Buongiorno. Buongiorno a te. Come stai intanto? Ah, qui tutto bene. Okay. Sto per partire tra 5 giorni, un po' mi mancherà. Infatti, manca una settimana al tuo ritorno e sei pronta a tornare in Italia? di sì, però appunto come ho detto mi mancherà, sono 6 mesi che sono qua e è stata una bellissima esperienza, quindi però sono contenta di tornare perché mi è mancata anche l'Italia. Immagino. E poi voglio sviluppare questo programma. Cosa ti mancherà dell'Iran principalmente? Non saprei, è molto particolare come paese, come popolo e come cultura. Non so, sono un popolo molto caldo, molto aperto. È una cosa che mi ha colpito subito dell'Iran e questo davvero mi mancherà. Uh-huh. Ma eri più impreparata tu a iniziare questo Erasmus lì a Teheran o erano più impreparati loro ad accogliere uno studente Erasmus? Com'è stato l'inizio? Forse tutte e due. Diciamo che io sono andata con le intenzioni più buone, nel senso sono andata cercando di rispettare qualsiasi regola mi fosse stata posta, anche se non faceva parte della mia cultura o della mia religione. E diciamo che per loro era la prima volta che dovevano accogliere uno studente straniero e per di più anche una ragazza, quindi dovevano anche loro stare attenti a delle divergenze culturali e religiose. Però ci siamo trovati bene. All'inizio sì, un po' di problemi e un po' di comprensione a causa dei vestiti e del fatto che magari non sapevano che io all'inizio ero una straniera. Poi quando l'hanno scoperto si sono subito prodigati per farmi sentire a mio agio e mi hanno spiegato che cosa dovessi indossare, che cosa era più consono in certe situazioni e in certe altre. No, sono stati molto aperti con me. Mm-hmm. Sì. Valentina, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo perché è il momento del traffico, poi torniamo immediatamente da te. Stai lì. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa insieme a Valentina Simeone, studentessa Erasmus in Iran. Valentina, mille domande ci sarebbero. La prima, l'università è così diversa dalla nostra? L'università dove sono entrata io è l'università, una tra le più importanti dell'Iran. Diciamo che da lì è partita la rivoluzione islamica, sì, quello che alla fine ha cambiato lo Stato, quindi ha una importanza storica particolare. Però sì, potrebbe essere in alcuni aspetti diversa, ma fino a un certo punto. È uno dei ricordi più belli che avrò però di questo Erasmus. Mm-hmm. E a te hanno fatto molte domande, erano curiosi di sapere... Sì. Appunto sono stata una delle prime europee che molti dei miei compagni vedevano, mi hanno chiesto che cosa pensassi dell'Iran, che cosa avessi saputo precedentemente della loro storia, della loro cultura. Io non sapevo tantissimo in realtà, è per questo che poi ho deciso di venire qui e di vedere con i miei occhi. Sì, mi hanno fatto un sacco di domande e anche io alla fine gli ho chiesto un sacco di cosa pensassero di noi. Abbiamo fatto un bello scambio. Assolutamente. In cosa ti ha cambiato questa esperienza? Stare 6 mesi in un posto dove la cultura e la religione sono completamente diversi mi ha portato ad aprirmi ancora di più a nuove esperienze, a nuovi punti di vista del mondo in generale. Non so, ho pensato molto alla mia cultura e questo mi ha dato uno spunto di riflessione in più. Non saprei, mi ha dato la possibilità di capire quanto è importante la loro cultura e la mia, quindi apprezzo molto di più entrambi. Grazie davvero Valentina, ti lasciamo la tua ultima settimana, poi magari ci risentiamo una volta tornata per riflettere insieme su questo bel percorso che hai avuto il piacere, l'onore, anche la fatica, perché insomma non credo che sia stato tutto facile di vivere in prima persona. Buone ultimi 5 giorni, ciao Valentina. Grazie, Europost-it. Scambio culturale in Romania sulla terapia del suono. Vi piacerebbe fare un'esperienza internazionale legata al mondo del suono? L'associazione Europalmente è alla ricerca di 3 ragazzi tra i 18 e i 25 anni pronti a partire per un corso di formazione in Romania sul tema del consumo della terapia del suono dal titolo Drumming Sound Therapy. Il progetto si svolgerà tra il 15 e il 22 aprile 2016 a Neamt, una cittadina del nord della Romania. e riunirà 29 persone provenienti da oltre 18 paesi. La filosofia del corso seguirà il metodo della terapia del suono drumming, applicabile nella vita quotidiana per affrontare questioni come il dolore cronico o l'insonnia. Vitto, alloggio e trasporto saranno interamente a carico dell'Associazione Europalmente. Per tutte le informazioni cercate Scambio Culturale in Romania sul sito scambieuropei.info. Your Europe USA is an event organized by the European Economic and Social Committee, bringing young people from schools throughout the 28 member states to Brussels to learn more about what we do and for us to learn what they want, not only us to do for them, but Europe to do for them. Si chiama Your Europe, Your Say, la vostra Europa, la nostra opinione, un dibattito tra giovani europei organizzato ogni anno dal CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo. Quest'anno si terrà dal 17 al 19 marzo a Bruxelles. I partecipanti sono ragazzi dei 28 stati membri più dei 5 stati candidati: Albania, Turchia, Montenegro, Serbia e Macedonia. Si sorteggia una scuola per ogni paese. Di questa scuola vanno un insegnante e 3 studenti. La scuola prescelta quest'anno è l'Istituto Superiore di Grafica, Moda e Design di Lecco, ma di tutto questo ne parliamo con quella che è un po' l'anima italiana di questa manifestazione. Diamo il benvenuto a Emilio Fatovic, che è segretario, se non erro, e membro del CESE, vice segretario generale della Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, cosa faranno tutti questi ragazzi a Bruxelles? Innanzitutto, come ogni anno, questa è la 7ª edizione, i ragazzi si confrontano. Quest'anno poi il tema è un tema di grandissima attualità, il problema dei migranti. I ragazzi si sono preparati in ciascuna scuola affrontando la tematica, confrontandosi con i genitori, con i professori della propria scuola, e poi in gruppi di lavoro realizzano sessioni di lavoro e poi hanno la plenaria. Lei pensi che questi giovani si confrontano su tematiche fondamentali, ad esempio il tema dei migranti è un tema scottante. Allora attualissimo, certo. Io l'ho ascoltata sabato e anzi faccio complimenti anche al libro di Eva che ha presentato Altra Europa. E i ragazzi affronteranno proprio questi temi, cioè affronteranno il tema della possibile integrazione, come possono integrarsi. Quali sono i processi? Cosa possono fare i giovani? Certo. Diciamo che è un punto di vista di coloro che vivono diversamente, ma in una visione di futuro di questi processi. Andremo poi settimana prossima a conoscere direttamente dalla voce dei ragazzi anche quello che hanno vissuto. Lei però è entrato in classe, è andato a fare un incontro preparatorio con questi studenti. Noi abbiamo avuto il 29 un incontro preparatorio a Lecco. In questo modo, in primo momento abbiamo insieme analizzato le istituzioni europee, perché purtroppo la cultura delle istituzioni e la conoscenza delle tematiche non sempre è approfondita nel nostro paese. Poi abbiamo iniziato con alcune domande, ma ciascun ragazzo eventualmente ha portato le esperienze. Poi abbiamo analizzato le esperienze della scuola. La scuola di Recco, ad esempio, ha ospitato, ed è più facile perché è un tipo professionale, ragazzi della Siria e un ragazzo della Siria che ha acquisito competenze in termini proprio di moda e di design che poi ha speso andando via. Quindi hanno realizzato un'inclusione sociale, scolastica e lavorativa, e di questo porteranno l'esempio come buona pratica e si confronteranno su questi temi. Inoltre in classe è emerso che i ragazzi su questi temi hanno difficoltà a casa perché i genitori hanno una visione diversa, e allora ho invitato i genitori anche con i ragazzi ad avere una sessione di confronto su queste tematiche. Le indico il luogo, Lecco, dove la realtà artigianale, la realtà di ospitalità è comunque una realtà non facile. Quindi sono le buone pratiche realizzate da ciascuna scuola delle 33 scuole. Lei faccia caso che 400 scuole hanno fatto la domanda, le abbiamo estratte a sorte, una per paese, per quelle partecipanti, dove hanno sviscerato tutte queste composizioni favorevoli, non favorevoli. Certamente i giovani hanno una loro sensibilità. Beh, insomma, assolutamente. Poi, insomma, la scuola è uno specchio, è un laboratorio, è una palestra della società, e da lì bisogna partire sicuramente per fare educazione, comunicazione, formazione, confronto. Diamo il sito di riferimento, che è www.eesc.europa.eu. Ricordo, dal 17 al 19 marzo a Bruxelles, Your Europe, Your Say, la vostra Europa, la vostra opinione, è promosso dal CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo. Grazie davvero, Emilio. Complimenti e buon lavoro. Grazie a lei e complimenti a lei per la trasmissione. Grazie, sono sempre ben accetti. Sì. Complimenti, tra l'altro, che spartisco insieme a tutta la squadra: Andrea Roccabella oggi la parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. Come sempre, voi che siete stati in nostra compagnia, che siete insomma attori fondamentali del programma. Radio24.it per poter scaricare il podcast. L'altra Europa @radio24.it se volete iscriverci. Federico Taddia su Facebook e su Twitter. Ancora grazie, l'appuntamento come sempre è a sabato prossimo. Ciao! L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.